Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 430, nella quale parleremo di pannolini vegani, lapidazioni, defenestrazioni e scavazioni. Speriamo di avervi incuriosito. Dedichiamo questa puntata a due individui e animali uccisi dalla stupidità e dalla cattiveria umana. In Cina, una femmina di canguro di 12 anni, detenuta nello zoo di Fuzhou, nella provincia di Fujian, è stata uccisa dai visitatori dello zoo. L'animale aveva un problema a un piede e non saltava, ma le persone che avevano pagato il biglietto volevano ottenere qualcosa in cambio del prezzo pagato e così, pur di ottenere una reazione, hanno cominciato a tirare addosso alla cangura dei pezzi di cemento, ferendola a morte. Il rapporto veterinario ha rivelato che la causa della morte è stato probabilmente il collasso di un rene danneggiato dalla sassaiola. Dalla Cina a Roma, sempre animali, sempre crudeltà nei loro confronti. Si chiamava Lilly, il Jack Russell, lanciato da una finestra del settimo piano lo scorso 18 aprile. Un uomo di 44 anni, al termine di una lite con la sua convivente, ha preso per il collo il cagnolino e lo ha buttato giù dalla finestra del settimo piano, davanti agli occhi inorriditi del figlio quindicenne della compagna. Quando il ragazzo è corso nel tentativo disperato di salvarlo, era già troppo tardi. Il volo di 21 metri è stato fatale per il cane. Il terribile episodio è accaduto in uno dei palazzoni adiacenti al parco di Tor Carbone. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni vicini di casa, che prima hanno sentito delle urla disperate e poi hanno visto il ragazzino che teneva in braccio il cucciolo ormai morto. Avvicinato dagli agenti del reparto intervenuto sul posto, l'uomo avrebbe risposto: «Tutte ste pagliacciate, è solo un cane». Una storia agghiacciante di ordinaria violenza che ripropone il legame tra la violenza sugli animali e la violenza sugli umani. Sicuramente un uomo che si comporta così verso il cane della compagna è un uomo potenzialmente pericoloso anche per la sua compagna. Dedichiamo quindi la puntata alla femmina di canguro senza nome e a Lilly, il Jack Russell, morto per defenestrazione da parte di un essere disumano. Don't you tell another lie. Don't you tell another truth. My heart, it isn't bulletproof from visions of you. E adesso qualche buona notizia di cui abbiamo bisogno. A Sarno, in provincia di Salerno, le guardie della protezione animali sono state allertate della presenza di un cinghiale finito in una trappola. Carabinieri e personale ASL si sono recati sul posto e con l'ausilio della teleanestesia hanno narcotizzato l'animale e provveduto a liberarlo. L'operazione è stata resa difficile dal buio, ma dopo alcuni tentativi il cinghiale si è addormentato e ha permesso ai medici di liberarlo e di controllare che non vi fossero ferite. Il cinghiale in questione era una femmina e aveva attorno a sé tutti i suoi piccoli, per questo motivo stava tentando da ore di liberarsi dal cappio che la strangolava, sarebbe morta in una lenta agonia per poi finire nel piatto del bracconiere che aveva posizionato la trappola e i suoi cuccioli sarebbero morti di inedia. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei medici ha cambiato il corso degli eventi. Concluse le operazioni di salvataggio del cinghiale, dopo alcuni appostamenti i carabinieri hanno fermato e denunciato il bracconiere che era tornato sul posto per controllare il suo bottino ottenuto con le trappole illegali. A Salerno andiamo in Perù, dove Olivia Arevalo Lomas, ambientalista impegnata nella difesa dei diritti culturali dell'Amazzonia, è stata uccisa. Lo si apprende da un comunicato stampa della Federazione delle Comunità Indigene di Ucayali. La donna, nota come Maraia, titolo che nella regione andina viene attribuito alle persone sagge, sarebbe stata uccisa da sconosciuti con 5 colpi di pistola a Yarinacoa, nella regione dell'Ucayali. Oltre a condannare l'assassinio, la federazione fa appello alla comunità internazionale e al governo del Perù affinché vengano fornite garanzie per la vita degli altri leader indigeni del popolo Shibibo-Conibo che affrontano continue minacce e molestie. Questo omicidio è solo l'ultimo a colpire gli indigeni dell'Amazzonia, sia essa Amazzonia brasiliana o Amazzonia peruviana. Secondo uno studio dell'ONG Global Witness e del quotidiano The Guardian, l'America Latina è la regione del mondo più pericolosa per gli attivisti indigeni. Stando alla ricerca, nel 2017 sono state uccise 197 persone per essersi opposte ai governi e alle imprese che saccheggiano le loro terre e danneggiano l'ambiente tramite corruzione e pratiche inique. Lo scorso anno in Brasile sono stati uccisi 46 attivisti, in Colombia 32, in Messico 15. Ci sta a cuore la sorte degli indigeni di tutto il mondo, prima di tutto perché forse sono tra gli individui umani che vivono una condizione più vicina a quella animale e poi anche perché sono in prima linea per la preservazione dell'ambiente, contro la mercificazione, contro lo sfruttamento e per queste battaglie rischiano continuamente la vita. Yo ma sei, yo ma sei, yo ma sei, yo ma sei, nella regione dell'Essex in Inghilterra, Louis Tom Fenton, un bambino di 12 anni, è stato trovato morto nel bagno di casa e si sospetta che si sia trattato di un suicidio. Il bambino veniva bullizzato dai suoi compagni di scuola in quanto vegano. Alla mensa gli tiravano addosso pezzi di carne e il bambino aveva avuto episodi di autolesionismo per i quali i genitori lo avevano portato da uno psicologo. Abbiamo accennato a questo episodio per parlare della cronaca italiana che ci porta frequentemente notizie di bambini o morti o finiti al pronto soccorso o gravemente denutriti o malati a causa, a dire dei cronisti, dell'alimentazione vegana. Approfondendo le notizie poi si scopre che il problema non è tanto l'alimentazione vegana quanto l'avere genitori disinformati, superficiali, disattenti, sfortuna che colpisce però anche tanti bambini onnivori, anzi più bambini onnivori in quanto gli onnivori sono numericamente di più. Però i bambini onnivori che finiscono in ospedale per il diabete o per altre degenerazioni dovute a diete troppo ricche di grassi e zuccheri non fanno notizia, appunto perché sono onnivori, perché sono la maggioranza, e ai media, come sappiamo, interessa l'uomo che morde il cane e non il cane che morde l'uomo. Eppure in Italia esiste un incredibile percentuale di bambini onnivori con problemi. Gli obesi sono il 9,8%, quelli in sovrappeso, non ancora obesi, sono il 20,9%. Su questi negativi primati siamo i leader a livello europeo, con le relative patologie connesse e i connessi costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Fa bene pertanto la Lega Antivivisezione, la LAV, a far notare che purtroppo, nonostante le evidenze scientifiche, la stragrande maggioranza dei pediatri sconsiglia ancora un'alimentazione priva di ingredienti animali, costringendo molti genitori alla rinuncia oppure a un rischioso fai da te. Bisognerebbe insomma prendere atto della disinformazione e dei preconcetti diffusi riguardanti l'alimentazione naturale o a base vegetale o vegana, come la si voglia chiamare. Per questo motivo abbiamo deciso di dare la parola a una mamma vegana, anzi a una gestante vegana, che fin da prima del concepimento della sua bambina seguiva un'alimentazione vegana, alimentazione che non ha modificato quando ha scoperto di essere incinta. Daremo avvio a una miniserie che inizierà oggi e che ci porterà nello spericolato mondo delle mamme vegane. Ascoltiamo il servizio a cura della nostra Valentina Reggioli. Tutti, oggi parliamo di dieta vegana in gravidanza. Se si fa una rapida ricerca su Google, questo è il panorama. Dal Corriere della Sera di qualche tempo fa, cito testualmente, con la dieta vegana in gravidanza più rischi di danni neurologici nel bebè. Una settimana più tardi il Tempo invece diceva: alimentazione vegana in gravidanza, nessun rischio per il feto se la dieta è bilanciata. Qualche giorno più tardi ancora, Donna Moderna, i medici avvertono: attenta alla dieta vegana in gravidanza. Insomma, un gran caos, con illustri primari che demonizzano la dieta vegana, dal Bambin Gesù di Roma al Maier di Firenze, e altrettanti che si schierano con i pro-veg, all'Università degli Studi di Bari. Sul banco degli imputati, ovviamente, la vitamina B12, che se non integrata bene dalla mamma in gravidanza, provocherebbe danni al sistema neurologico del feto. A quanto pare sarebbe aumentato il numero di bambini piccoli ricoverati per gravi carenze di vitamina B12, difficoltà motorie principalmente. Tutti questi bambini proverebbero da famiglie vegane. Poiché sono in gravidanza anch'io, ho superato l'ottavo mese, volevo portare la mia esperienza su questo argomento, perché se siamo sotto tiro in generale appena diciamo di essere veg, appena diciamo di essere anche incinte e di essere decise a mantenere la stessa scelta alimentare, apriti cielo. Prima di rimanere incinta sono andata dalla ginecologa, preoccupata dai possibili effetti sul feto di alcuni medicinali che purtroppo devo prendere. Invece non ha fatto una piega a nominare i medicinali. Finché non le ho detto di essere vegana, mi ha detto testuali parole: una dieta vegana non è compatibile con la gravidanza. Se mai rimarrai incinta dovrai riprendere a mangiare tutto finché il bambino non sarà svezzato. Noi umani ci siamo evoluti grazie al consumo di carne. Dopo aver raccolto la mascella da terra ce ne siamo andati mesti e non siamo ovviamente più tornati. Quando abbiamo scoperto di essere incinte abbiamo cambiato ginecologa. In questo caso la reazione è stata questa. Ci ha fissato per 2 minuti, buoni, in silenzio, scuotendo la testa. Alla fine ha detto: vedrai che dovrai mangiare almeno un po' di uova. Tutte le pazienti vegane che ho avuto hanno mangiato almeno quelle. Le ha fatto vedere le mie analisi complete di vitamina B12, omocisteina e vitamina D, perfette. Dopo avermi detto che non c'erano elementi a cui stare attenta perché non mangio salumi, non mangio carne cruda, non mangio uova crude, eccetera, ci siamo salutate con un vedremo. Siamo rivolta a un nutrizionista, cosa che avremmo fatto anche se fossimo stati onnivori, che per fortuna non ha fatto una piega quando le abbiamo detto che siamo vegani. Mi ha solo detto di continuare a integrare la B12 e la vitamina D, tra l'altro in commercio ci sono tantissimi prodotti completamente cruelty free. Mi ha dato una dieta ricca di cereali integrali, amaranto, orzo, farro, riso e pasta integrale, legumi tutti i giorni, ceci, fagioli, lenticchie, fave, eccetera, tanta frutta fresca e secca ricca di omega 3, soprattutto le mandorle, che sono ricche di calcio e noci, e verdura di stagione. Nel frattempo anche la mia collega, assolutamente carnivora, ha scoperto di essere incinta e di essere molto anemica. Chissà che avrebbe scoperto se avesse fatto anche analisi per la B12 o la D, perché ammettiamolo, un vegano coscienzioso spesso è molto più attento alla propria salute di un onnivoro tradizionale. I mesi hanno cominciato a passare e la bambina, abbiamo scoperto che è una femmina, ad ogni controllo non solo stava benissimo, ma era anche un po' più grande della media. Io pure. Non ho mai avuto una nausea, né fino ad oggi un disturbo, se non un po' di stanchezza che però è fisiologica. E a ogni controllo la ginecologa non ha mai più tirato in ballo l'argomento uova. Ovviamente, ad ogni prelievo ho dovuto fare il doppio controllo del sangue, oltre ai classici prelievi. Ogni volta ho controllato la B12 e il calcio, sempre nei limiti, per non parlare dei valori standard di colesterolo e ferro, ottimi. Vedendo che stavo inesorabilmente prendendo peso, mi sono scaricata un'applicazione che conta i passi ed ogni giorno costringo i miei cani a passeggiati di almeno 10 km nel bosco. Alla 26esima settimana ho fatto la curva glicemica per controllare il diabete gestazionale, perfetta. Sono tornata dalla nutrizionista che mi ha cambiato la dieta, aumentando la quantità di proteine. Ad oggi consumo 11 porzioni di legumi su 14 pasti, fra lenticchie, fagioli, ceci, tofu e tempè, e 8 porzioni su 14 di cereali, fra riso, orzo, farro, amaranto e quinoa. Mi ha consigliato di continuare con l'assunzione di B12 e D, che io diligentemente prendo. Ho cominciato un corso preparto. Una ragazza ha visto la mia maglietta con scritto veg e mi ha chiesto se veg era perché sono vegana. Le ho detto di sì e che anche la mia bambina lo è. Lei mi ha risposto, per ora. Non sono riuscita a interpretare la cosa. Appena uscirà dal mio corpo mi mangerà per vendicarsi oppure andrà da sola da McDonald's. Non lo so, staremo a vedere. Le uniche che non hanno mai storto il collo alla notizia che siamo vegani sono state le ostetriche. Una addirittura, assolutamente non animalista, ha parlato a lungo dell'importanza di dare solo latte intraspecifico al proprio bambino e di lasciare latte di mucca al vitellino. All'ultima ecografia di 2 settimane fa la Nina era di 2,2 kg a 34 settimane e non ha smesso un attimo di muoversi. Vediamo che cosa ci riserva il nostro futuro. Noi per ora continueremo ad essere vegani, coscienziosi ma vegani. Termine del servizio di Valentina Reggioli, ci teniamo a dire che una dieta vegana ben pianificata può essere seguita facilmente durante la gravidanza, l'allattamento al seno e in età pediatrica. Lo afferma non la nostra redazione, ma la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, la SSNV, che è un'associazione non profit fondata nel 2000, costituita da professionisti, studiosi e ricercatori in diversi settori della nutrizione, della medicina, di settori connessi, ecologia della nutrizione, impatto ambientale, giurisprudenza, eccetera, favorevoli alla nutrizione vegetariana e competenti sui diversi aspetti delle diete a base di cibi vegetali. Uno degli scopi della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana è quello di fornire informazioni di qualità per il professionista che voglia aggiornarsi su questo tema. Si tratti di un medico di base o specialista, di un biologo, nutrizionista, di un dietista o di qualsiasi altra figura professionale interessata all'argomento. Per saperne di più potete digitare www.scienzavegetariana.it. And he scares me, but I want him by my side. Though he's wild and he's bad, sometimes just plain mad. I need him to keep me satisfied. Gabriel, pure and white as ivory. Soul like a Lucifer, black and gold like a piece of lead. Misguided angel, love you till I'm dead. I said, brother, speak to me of passion. You said never to settle for anything less. Well, it's in the way he walks, it's in the way he talks. His smile, his anger, and his kisses. Anche la ricetta di questa settimana, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che da anni conduce la rubrica di cucina Il Pasto Gentile e che propone l'adagio Vivi e lascia vivere. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Don't you know my eyes, my eyes, they see you. E alle vegan mamme in attesa voglio dedicare oggi questo classico della cucina campana. Una torta a base di cioccolato fondente e mandorle tostate, perché una fetta di torta vegan può essere una giusta e meritata coccola. Gli ingredienti per una tortiera da 24 cm di diametro per la torta caprese sono 100 g di cioccolato fondente, 200 g di mandorle pelate, 150 g di zucchero di canna, 100 g di acqua, 50 g di olio di semi di girasole, 100 g di farina di frumento, una bustina di lievito per dolci, 100 g di panna di soia, un pizzico di sale e dello zucchero a velo. Fate tostare le mandorle in forno a 150 gradi per 10 minuti. Quindi lasciate raffreddare e tritatele assieme a 50 g di zucchero di canna. A parte, fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria e mescolando con una frusta aggiungete la panna di soia. In una terrina unite l'acqua, l'olio di semi e il rimanente zucchero di canna. Amalgamate bene ed unite la farina setacciata assieme al lievito per dolci e ad un pizzico di sale. Unite all'impasto la crema di cioccolato e le mandorle tritate. Spennellate una tortiera con poco olio e infarinatela. Versate il composto e fate cuocere a 180 gradi a forno statico per circa 30-40 minuti. Lasciate raffreddare e servite spolverando con zucchero a velo.